Allora, abbiamo visto la scorsa volta, un po' abbiamo iniziato ad approfondire questo trattato, diciamo, di Shoresh Mitzvah Tefilah, il cuore della Mitzvah della Tefilah, la radice della Mitzvah della Tefilah. Abbiamo visto dal punto di vista alachico dove viene collocata la Tefilah. La Tefilah è la richiesta delle nostre esigenze davanti ad HaKadosh Baruch Hu. La Tefilah chiaramente si intende soprattutto la Amidah, come abbiamo visto che anche nella Mishnah, nella Gemara, quando si dice Tfilah, è un riferimento alla Amidah in maniera particolare, specifica. E abbiamo iniziato ad approfondire nel mondo della Kabbalah, nel mondo della mistica ebraica, la Tefilah viene considerato un momento di Yichud. Cosa vuol dire Yichud? Yichud vuol dire unione. Ora, sapete sicuramente, nel rito sefardita si dice prima di ogni mitzvah, Leshem Yichud Kucha Brichu Ushkintei. Cosa sono queste parole? E noi facciamo quella mitzvah, ogni mitzvah, per Yichud, per creare un'unione tra Kucha Brichu, che sarebbe in aramaico HaKadosh Baruch Hu. Kucha Brichu è la stessa cosa in aramaico delle parole HaKadosh Baruch Hu, e Shchintè, la sua Shekhinah. Un'unione tra HaKadosh Baruch Hu e la sua Shekhinah, che vuol dire? Che sono queste due cose? Allora, in realtà, questa stessa cosa è ciò che avviene secondo la Rizal nella Kabbalah, è ciò che avviene nel momento della Tefilah, nel momento dell'Amidah. Come abbiamo anche visto la scorsa volta, che l'Amidah viene collocata secondo la Kabbalah in un aspetto di Yichud Zachar v'Nekevah, cioè si usa la metafora di unione maschio e femmina. Cosa vuol dire tutto questo? Tra l'altro, abbiamo anche delle altre perplessità quando parliamo dei nomi di Hashem. Abbiamo già iniziato a vedere che perché HaKadosh Baruch Hu viene chiamato con diversi nomi, e i maestri ci spiegano che ogni nome indica un'altra sefirah, un'altra delle sfere spirituali attraverso le quali HaKadosh Baruch Hu, diciamo così, interagisce con la realtà. Allora, cosa vuol dire tutto questo? In realtà abbiamo fatto una introduzione molto importante. Abbiamo detto che quando noi usiamo nella Torah parole riguardo a Kadosh Baruch Hu che sono prese dal mondo umano, antropomorfismi, bisogna essere molto attenti a non attribuire in maniera letterale queste cose ad Kadosh Baruch Hu, perché allora si potrebbero fare dei gravissimi e grandissimi errori nella nostra comprensione di Kadosh Baruch Hu ed arrivare ad uscire fuori dallo schema proprio dell'ebraismo. HaKadosh Baruch Hu, Achdut Pshuta, dice il Rambam, cioè HaKadosh Baruch Hu rappresenta un'unione semplice. Che vuol dire semplice? Vuol dire che noi non possiamo in nessun modo definire quella sua esistenza, quella sua unità. Ok? Ora, cosa sono tutti questi nomi? Cosa rappresentano tutte queste cose? In realtà, HaKadosh Baruch Hu è uno, Hashem Echad, chiaramente. E il Midrash dice Lefi Maasai Ani Nikra, cioè io vengo chiamato, dice HaKadosh Baruch Hu, secondo le mie azioni, secondo ciò, Hashem Echad Ushmo Echad. Ok, questo più avanti faremo riferimento a questa cosa. E in realtà questo Midrash si riferisce proprio alla Parashah che abbiamo letto la settimana scorsa, alla Parashah di Shemot, dove c'è scritto che Moshe ha detto ad HaKadosh Baruch Hu Ve'amruli mashmo ma omar alehem. Se io verrò dai Bnei Israele e dirò loro tutto quello che tu mi stai, Kadosh Baruch Hu, mi stai dicendo di portare loro il messaggio, ve'amruli mashmo, loro mi chiederanno come si chiama, cos'è il suo nome. Ma omar alehem, cosa gli dirò? È ovvio che va capita questa cosa. Vuol dire che mi chiederanno com'è il suo nome. In effetti Moshe Rabbeinu stava chiedendo ad HaKadosh Baruch Hu come stai agendo, perché i nomi, dice il Midrash, dipendono da come HaKadosh Baruch Hu si manifesta, da come agisce. Le fima assai aninikra. Io mi chiamo secondo le mie azioni, e cioè dice: a volte mi chiamo Elohim, perché Kishani Dan et Aberiot, quando io giudico, allora vengo chiamato Elohim. Elohim è un nome che indica giudizio, anche viene preso lo stesso nome usato non solo per Akadosh Baruch Hu, in realtà. Ci sono contesti in cui la parola Elohim è un riferimento a giudici umani. Dove è un esempio che, se qualcuno può ricordare? Oggi è martedì, no? Qual è il salmo di martedì? Mismor le Asaf. Bekerev Elohim Yishpot. Che Akadosh Baruch Hu, Elohim Nitzav Vadat Kel, Bekerev Elohim Yishpot. Che Akadosh Baruch Hu, quando c'è un bet din, una corte di giudici, i rei Shamaim, che seguono l'Alaha, allora Akadosh Baruch Hu sta accanto a loro. Bekerev Elohim Yishpot. Chi sono Elohim? Sono i giudici. Lo diciamo martedì mattina. Ci sono tanti esempi, anche nella Torah stessa, Elohim lo tekallel, c'è cioè una mitzvah che non si può maledire un giudice, e così via. Ci sono tanti, tanti esempi. Allora, quando il nome Elohim, riferito ad Akadosh Baruch Hu, è un riferimento al giudizio di Akadosh Baruch Hu. Kshani merachem, quando io mi comporto con misericordia, allora il nome è il Shem Havaya. Il nome tetragramma, il nome Yudkei Vavkei indica i rachamim, la misericordia, che è un insieme di Chesed e Gevurah, è una fusione tra l'aspetto di benevolenza e l'aspetto di rigore. E così via, ognuna delle 10 sefirot, ognuna delle manifestazioni divine si può esprimere in un altro nome di Akadosh Baruch. Ok? Ora, la domanda è: perché ci serve tutto ciò? Uno dice: io vado e prego davanti ad Akadosh Baruch Hu, cosa mi serve di più? Perché devo iniziare ad entrare in questi dettagli? Questo nome, quella sefirah, non siamo tutti cabalisti, anzi la maggior parte di noi non siamo cabalisti, allora non possiamo pregare? Non possiamo andare davanti ad Akadosh Baruch Hu e dire la nostra tefilah? E questa è una grande controversia che si è creata nel corso dei secoli, perché quando i primi Mekubalim hanno iniziato ad esporre queste idee, c'è stata appunto una grande controversia, poi più avanti citeremo anche dei testi specifici su questo, dove alcuni hanno detto, ovviamente non entrando nella profondità della cosa, che è proprio vietato. Sembra come se uno dicesse, Chas v'shalom, ma sia che ci sono più autorità, che non si può dire una cosa del genere, neanche pensavo. E allora, Come è possibile che la preghiera, che la tefilah sia fatta in questa maniera? Allora hanno spiegato, hanno approfondito che no, è chiaro che l'autorità è una, ma le modalità possono essere varie. È come se noi dicessimo un re che, al quale noi chiediamo di entrare nella sua grazia, dipende dal tipo di esigenza che uno ha. Uno chiede un tipo di richiesta, un altro fa un'altra modalità di richiesta, e in base a questo il re si può comportare in diverse maniere. Queste maniere sono le sefirot, quando parliamo di Akadosh Baruch Hu. Ma il re è sempre uno. Ok? Allora è arrivato uno dei grandi Rishonim e ha detto: va bene, posso accettare questa spiegazione, però non mi serve. Che vuol dire non mi serve? Lui ha detto: animit palel ladat ze atinok. Io prego come un bambino piccolo. Un bambino piccolo prega a Kadosh Baruch Hu. Può avere in mente tutti questi dettagli, tutte queste, diciamo, mappe spirituali, direzioni avanti, indietro, nomi specifici e tutto quanto. Prega da Kadosh Baruch Hu con una semplice emunah, che forse è la più profonda emunah. Dice: io, uno dei grandi Chachamim, scrive un Rishon, dice: io prego come un bambino. Tutto bello questo, ma perché? Perché devo passare attraverso questi canali? Allora la Chassidut qui, il Rebbe Tzemach Tzedek, inizia a spiegare un po' qual è il senso di questa cosa. Diciamo che la Kabbalah dà la mappa spirituale delle cose, ma la Chassidut dice perché serve e perché è rilevante per noi, perché ci conviene, diciamo così, entrare in questo discorso. Allora, torniamo alla Amidah per approfondire da questo punto di vista l'Amidah. Abbiamo visto che l'Amidah rappresenta in particolare Ichud, Kucham, Brichu, Ushkintei, un'unione tra Akadosh Baruch Hu e la sua Shekhinah. Di nuovo, che vuol dire? Allora, quando noi diciamo nelle fonti la parola Akadosh Baruch Hu, il nome Akadosh Baruch Hu, è un riferimento alle sei sefirot centrali. Se noi pensiamo un attimino quali sono le dieci sefirot, vengono suddivise in tre categorie generali, tutte le dieci sefirot. Le prime tre sono quelle che, come si dice sempre, sono legate al mondo intellettuale, cioè sono Chochmah, Binah e Daat, che sono tre fasi dello sviluppo di una idea, quindi parliamo ancora di teoria, tra virgolette, e la seconda categoria sono tutte le sei sefirot successive, che vengono normalmente definite quali l'aspetto emotivo, sentimentale. Ok? Quindi cosa abbiamo? Abbiamo un'idea che viene sviluppata e poi si esprime in una maniera pratica, cioè viene applicata. Facciamo un esempio. Se una persona capisce nella sua mente, a livello intellettuale, la validità di una cosa, per esempio oggi fa freddo, e a livello cerebrale ha senso che se fa freddo uno vuole riscaldarsi, giusto? Ok, allora vede una bella teiera calda, all'interno c'è del tè bello, bello caldo, e dice, beh, avrebbe senso se io prendessi un po' di questo tè e lo consumassi, allora mi riscalderei. È un'idea, una teoria. E questa teoria fa nascere la volontà, quindi la vicinanza nel proprio, diciamo, processo interno di effettivamente volere questa cosa. Una cosa è la teoria, un'altra cosa è il voler sposare la teoria, cioè entrare in contatto. Allora, la prima fase è la fase intellettuale, è la fase della mente. La seconda fase è la fase che si chiama del cuore, cioè un voler interagire. La terza categoria si chiama Malchut. Malchut letteralmente vuol dire regno, ora vediamo perché si chiama regno, ma è quella pratica, è quella reale, del mondo reale. Quello è il momento in cui tu bevi, cioè tu decidi di mettere in atto. Non decidi, decidi prima, è il momento che metti in atto. E l'azione, parliamo in un esempio più, diciamo, largo, più vasto, perché usiamo sempre il rapporto umano tra maschio e femmina, come una metafora per questo rapporto qui spirituale. Allora, se ha senso a livello intellettuale entrare in un rapporto, perché? Perché ci sono i presupposti che uno cerca in un compagno, in una compagna, ok? Allora ancora non c'è un sentimento, non c'è un legame affettivo, però per parlarsi, per entrare in un rapporto di teoria, ci deve essere qualche presupposto a livello mentale. Nel momento in cui c'è quel presupposto, allora c'è quello che si chiama Amshachat Alev, cioè il cuore diventa coinvolto, cioè un legame affettivo. Quando diventa coinvolto il cuore, poi ci può essere un'unione totale, quindi una fusione delle due parti che diventano una. Allora, tutto questo è per fare una metafora di cosa succede le mala nei mondi superiori. E cioè, Kuchabrihu, quando diciamo Akadosh Baruch Hu, questo è un riferimento alle sei sefirot centrali. Cioè, quelle dove c'è un coinvolgimento. Nella metafora abbiamo detto un coinvolgimento affettivo, c'è un coinvolgimento del cuore, cioè queste sono le midot, gli attributi di HaKadosh Baruch Hu che vanno da Chesed, cioè apertura, benevolenza, Gevurah, rigore, chiusura, limite, Tiferet, misericordia, armonia, un po' una fusione delle due, e le successive tre che sono altre espressioni delle prime tre, adesso non entro nel dettaglio, e quindi un legame. C'è qualcosa che lega, che non è solo un legame freddo, teorico della mente, è un legame profondo. Però questo non vale niente finché non viene messo in atto, finché non c'è la pratica. Allora la Shekhinah, quando noi diciamo Yichud, Kuchabrihu, Shekhintei, la Shekhinah rappresenta Malchut, regno, cioè la pratica, la creazione vera e propria. Perché la creazione si chiama Malchut? Malchutò berazzon kiblu alehem. Che vuol dire? C'è scritto che HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo perché si è riconosciuto il suo regno. Cioè, noi diciamo il venerdì sera nella Kabbalah Shabbat, Mismor le David, Hashem. C'è scritto che Adam Arishon, quando fu creato il primo uomo, e realizzò il creatore, la grandezza di HaKadosh Baruch Hu, allora cantò questo Mismor David, perché per fare coinvolgere tutta la creazione nel riconoscimento del regno di Hashem, il riconoscimento di chi regna qui. Infatti per questo diciamo Hashem Malach Geut Lavesh venerdì sera. Hashem Malach, che è il Teilim 93, perché in quel momento viene riconosciuto il regno di HaKadosh Baruch Hu. Che vuol dire il regno di HaKadosh Baruch Hu? Il regno di HaKadosh Baruch Hu vuol dire En Melech Belo Am, non c'è un re senza un popolo. Cioè, perché un re sia appunto riconosciuto come tale, ci devono essere dei sudditi che accettano il suo regno. Una persona che ha 3 milioni di pecore, comunque non è un re, è uno che possiede delle pecore. Ma una persona che viene riconosciuta come un sovrano, da chi? Neanche dalla sua famiglia, da persone esterne, allora qui possiamo dire che questo è considerato un re. Quando HaKadosh Baruch Hu crea il mondo e crea l'umanità, è perché sia riconosciuto il suo regno, e cioè che noi potessimo dire Hashem Malach, Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, e cioè perché noi ci interfacciamo sempre con HaKadosh Baruch Hu tramite la parola Melech. Ogni bracha che facciamo cos'è? Melech HaOlam. Perché significa se tu sei re vuol dire che io sono suddito. E viceversa. Se io sono suddito, tu sei re, in un certo senso. Allora questo riconoscimento è come un inchino interno, spirituale, che uno fa e dice mi rimetto alla tua volontà. Nel momento in cui lui è re, noi ci rimettiamo, e riconosciamo questo suo regno, noi ci rimettiamo alla sua volontà. Per questo tutta l'interfaccia è attraverso Malchut, attraverso questo attributo qui che si chiama regno. E tutte le brachot, e tutta la Amidah, e tutto quanto è sempre impostato su questa impostazione di Melech, di re. Yichud kuchabrihu shkintei, l'unione tra le sefirot superiori, quindi le prime sei di questa categoria, e la Shekhinah, e cioè Malchut, che vuol dire? Vuol dire che c'è un problema. Qual è il problema? Il problema è che noi guardiamo il mondo, guardiamo la realtà, e per la natura delle cose non vediamo questo regno. Sembra che la natura, che il mondo vada avanti così, per forza della natura. Non sembra che ci sia questo shefa, cioè questo flusso che lega dai mondi superiori ai mondi inferiori, alla creazione vera e propria. Tutto va avanti perché così funziona la natura. Questo fatto qui, il fatto che noi non vediamo questa dinamica, Questo si chiama, nel linguaggio della Kabbalah, Galut Ashkinah, l'esilio della Shekhinah. Cosa si intende per esilio? Quando uno è esiliato o è imprigionato, se vogliamo, non può esprimersi come vorrebbe, non può agire come vorrebbe, è limitato, e questi limiti sono imposti dall'esterno, non sono autoimposti, in un certo senso, no? Nella persona, chiaramente. In altre parole, quando noi diciamo, usiamo questo termine che è sempre una metafora per la Shekhinah, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che non si vede questo legame. È come se tutto va avanti per forza della natura, senza un coinvolgimento diretto. E com'è possibile una cosa del genere? In teoria, in realtà, forse è più normale così, perché se noi leggiamo sulla Torah, Kadosh Baruch Hu ha creato il mondo e ha creato un sistema dove il mondo funziona secondo questo sistema della natura. In particolare, quando vediamo ciò che avviene dopo il Mabul, dopo il diluvio. Il diluvio è stato un momento, con Noach, è stato un momento in cui in qualche maniera sono stati distrutti, diciamo, i parametri normali, non si è andati secondo le regole della natura. Dopo il Mabul, dopo il diluvio, HaKadosh Baruch Hu fa un giuramento con Noach e i suoi figli e dice: Lo Yishbotu, d'ora in poi il mondo non sarà più distrutto in questa maniera, ma soprattutto lo Yishbotu, cioè tutti gli astri, l'andamento della natura, andrà avanti senza cessare. Cioè impostiamo automatico e va avanti così. Allora se va avanti automatico, cosa vuol dire che io faccio una tefilà, attraverso questa tefilà esiste un'unione, cioè per unione si intende un shefa, un flusso divino che va dall'alto e arriva fino al Malchut, fino all'azione, fino al nostro mondo. Produce qualcosa, produce la nostra realtà. E se tutto funziona automatico, a cosa serve questa cosa? Questa è la Galut Ashkinah. La Galut Ashkinah vuol dire che vedendo dall'esterno sembra tutto normale, ma proprio perché è automatico, proprio perché è impostato così, se vogliamo, questo stesso è il problema. Immagina una situazione, una famiglia, immagina un rapporto, facciamo sempre l'esempio del rapporto di coppia, dove la coppia esiste, ma va avanti solo perché ancora non è stato distrutto, non è stata distrutta la dinamica. Non va avanti per affetto, per coinvolgimento affettivo, va avanti perché esiste questa struttura, abbiamo deciso di stare in questa struttura, però di fatto la parte interna è mancante. Allora, nessuno può dire che qui non c'è un rapporto. C'è un rapporto. Ma è un mancante di cosa? Come? Mancante? La parte interna. Sentimento. Sentimento. Come? Che vuol dire? Cioè, esistono purtroppo tante situazioni, no? Dove c'è magari una coppia che ha un rapporto di coppia, che vive insieme, però di fatto non c'è nessun sentimento. Allora, dal punto di vista esteriore c'è tutto, dal punto di vista interiore non c'è nulla. Allora applichiamo questa metafora al discorso che facciamo, e cioè, sì, certo, tutto il mondo esiste, va avanti, e il sole sorge la mattina e tramonta la sera e così via, e come c'è scritto in Bechukotai Telechu Venatati Kishmechem Beitam, se seguite i miei statuti, allora le piogge arriveranno nel loro tempo, eccetera. Noi vediamo le piogge, anche senza seguire gli statuti, Chas v'Shalom, però guardiamo, il mondo va avanti. Spiegano i maestri della Kabbalah, tutto ciò va avanti a livello chitzoniut, cioè esteriore. È come un rapporto di coppia in cui non c'è più il cuore, ci sono solo i meccanismi. Allora i meccanismi ci sono, ma i meccanismi sono la parte esteriore. Ciò che dovrebbe far partire i meccanismi è la parte interiore. Quando manca questo, è un galut, è una restrizione, è un HLM, cioè è un nascondimento di qualcosa, cioè qualcosa che non è visto, che non è sentito. Questo è il senso, brevemente, di galut Ashkina. Sì, ok, un momento. Perché si piange la galut Ashkina? In generale, ma anche ci sono delle tefilot che sono accentrate attorno a questa cosa, come il Tikkun Chatzot, per esempio, la tefilà della mezzanotte di Tikkun Chatzot è proprio dedicato a questo tema qui della galuta Shchina. Shchinta begaluta, usando il termine del Zohar, cioè la Shchina è in esilio, non è che è andata da qualche parte, è in esilio. In esilio vuol dire che non è uno stato ideale. Tutta la parte interna, come se mancasse, non ci fosse. La tefilà è in minima parte, in particolare la Amidà, è un cercare di rimettere attraverso il fatto di ricrearlo dentro di noi, questo legame affettivo verso HaKadosh Baruch Hu in questo caso, di ricreare quell'unione anche sui livelli spirituali. Perché quello che noi facciamo qui diventa un rispecchiamento, viene rispecchiato nei mondi superiori. Sì, dimmi. Ok. Ok. Allora, in realtà tutto il concetto di Rosh Hashanah, quando noi festeggiamo Rosh Hashanah, non è un semplice Capodanno. Come oggi festeggiano il Capodanno, non è che noi lo festeggiamo uguale solo in un altro momento. È totalmente un altro concetto. Qual è il concetto? Rosh Hashanah si chiama, nelle parole dei Chachamim della Kabbalah, i Mekubalim, Binyan HaMalchut, la ricostruzione del Malchut, del regno. Che vuol dire? Sempre parliamo di questo regno. Binyan HaMalchut, la costruzione del regno, ciò che dicevo prima, ciò che Adam Arishon ha fatto nel momento in cui è nato, e cioè ha riconosciuto la sua sudditanza e quindi la sovranità di HaKadosh Baruch Hu, questo è quanto si riafferma ogni volta a Rosh Hashanah. Cioè alla fine dell'anno è come se scadesse quella affermazione, e quindi è come se HaKadosh Baruch Hu in un certo senso si rimuove dalla realtà, e è richiesto da noi riconfermare, riaffermare la nostra sudditanza per richiamare la sua sovranità. E la Kabbalah lo chiama proprio Binyan HaMalchut, la ricostruzione, la costruzione di questo regno. Cioè dobbiamo, Rosh Hashanah è l'anniversario della prima volta che questo fu fatto attraverso Adam e Chava, e essendo il nostro un tempismo, diciamo, ciclico, dove le cose vanno ripetendosi e approfondendosi, non che si ripete esattamente la stessa cosa, ma si va su un livello ancora più profondo ed elevato, questo avviene a Rosh Hashanah, e ogni giorno è un piccolo Rosh Hashanah in questo senso. Quindi Rosh Hashanah è l'affermazione per tutto l'anno, e quindi è il momento in cui HaKadosh Baruch Hu decide, ok, e rispondo a questa vostra affermazione di sudditanza con la mia sovranità per un altro anno. Ora però sta a noi, nel corso di tutti i giorni di quell'anno, di appunto di esserci veramente, perché una cosa fare un'affermazione una volta, anche se fatta con tutto il cuore, ma poi se domani te lo dimentichi, allora di nuovo rimane un rapporto meccanico, ma con all'interno un vuoto, senza sentimenti. Ok? Scusa, Gatto, sì? La Shekinah è tornata su o può ancora più giù? Ok, allora, questa è un'ottima domanda. La Shekinah, se è tornata su, cioè Galut Ashkina, no? L'esilio della Shekinah vuol dire che la Shekinah non è presente o è presente ancora? Allora, di fatto, secondo la Rizal, massimo esponente della Kabbalah, in realtà se possiamo parlare di una rivelazione della Shekinah nella nostra realtà, lui dice che questa cosa prima della venuta del Mashiach e la ricostruzione del Beit HaMikdash è quasi impossibile nel senso veramente reale della cosa. Cioè un raggio di un raggio di un raggio è ancora, diciamo così, può essere nella nostra esperienza. Ma la vera presenza della Shekhinah è qualcosa che è quasi impossibile. Per presenza si intende rivelazione, no? Manifestazione. Che questa sarà l'esperienza della venuta del Mashiach. Questa anche dà un'altra prospettiva, cioè la venuta del Mashiach non è semplicemente una bella cosa, un'indipendenza politica secondo la Torah e tutto quanto, una pace mondiale, una tranquillità totale, eccetera. Queste sono tutte cose che sono secondarie, secondo questa visione più profonda, che sono secondarie alla rivelazione della Shekhinah. Possono essere conseguenze della rivelazione della Shekhinah. Però di norma ci si occupa delle conseguenze. Invece la Kabbalah vuole approfondire, la Hasidut lo cerca di renderlo rilevante nella nostra vita, come dobbiamo cercare di andare più anche al sodo delle cose. E questo cosa c'è dietro? La rivelazione della Shekhinah significa la ricostituzione di tutto l'organismo, tra virgolette, se usiamo questa metafora. E allora questo che citavo prima, che diciamo nell'Arvit, Umalchutò Berazzon Kibelu Alehem, loro accettarono su di sé il suo regno, Malchutò, come lo accettarono? Berazzon, con la loro propria volontà. Con la propria volontà significa non è una cosa che è imposta dall'esterno. Di nuovo, se qualcuno regna sul prossimo con la forza, non è un regno, è una schiavitù, è un altro tipo di contesto. Malchutò, essere, riconoscere la sovranità di HaKadosh Baruch Hu in quanto suoi sudditi, è possibile se lo facciamo berazzon, con la nostra volontà. Allora lì diventa Melech Haolam, tra virgolette. Certo che è Melech Haolam comunque, però se noi entriamo in questo rapporto di suddito e di re, allora deve essere Berazzon, deve essere che noi sottomettiamo la nostra volontà, per nostra, volendolo fare, per nostra volontà, alla sua volontà. Come dice la Mishnah, a se rezzoncha kirzono, e cioè allinea la tua volontà alla sua. Facile dire, ma non è facile mettere in atto. Ok? E questa è Avodat Hashem, per questo si chiama Avodah, anche non solamente servizio, ma anche duro lavoro e dura fatica. Proprio per il discorso che appunto nel momento in cui viviamo adesso, che è un momento di galut, momento di esilio, e quindi questo grande, diciamo, Elem si dice in ebraico, cioè la grande carenza del vedere, del vivere la realtà spirituale così come è nei mondi superiori, quindi la mancanza, che sempre usando questi termini, Shefa, la mancanza di questo flusso evidente, proprio per questo abbiamo la Tefilà. Cioè la Tefilà è un modo per riempire un po' questo vuoto. Per Tefilà sto intendendo sempre qui la Amidah, ok? Per questo dicono i Mikubalim, Yichud Kuchabrihu Ushkintei è legato in particolare alla Amidah, e cioè il ricreare un'unione tra l'aspetto delle Sefirot, che si chiama Kadosh Baruch Hu, cioè le sei Sefirot centrali, le sei Midot, Chesed, Gevurah, eccetera, con Malchut, con la Shekhinah, cioè che ci sia un rapporto vero e proprio, che ci sia un legame, che ci sia questo Shefa, che ci sia questo flusso. Questo è effettuato attraverso che cosa? Attraverso l'Amidah. E allora l'Amidah include in sé, rappresenta in sé un grandissimo paradosso. Perché? Perché da una parte abbiamo studiato che l'Amidah che cosa è? È la richiesta delle nostre esigenze. Allora, se tu chiedi qualcosa, significa che sei qualcuno. Sì, sembra una frase molto semplice, però se ci pensiamo vuol dire che la tua entità, la tua esistenza è qualcosa che esiste, qualcosa di concreto, che ha bisogno di, ha delle esigenze, ha bisogno di qualcosa e non siamo neanche timidi, chiediamo le nostre esigenze, chiediamo che siano esaudite le nostre richieste. In un certo senso si potrebbe dire, non è presunzione, diciamo così, però è comunque affermazione della propria entità. Al tempo stesso diciamo una cosa contraria, e cioè che la Amidah è che Omed Lifnei Amelech. Perché si chiama Amidah, stare in piedi? Perché è come uno che sta in piedi davanti al re, e si fa in piedi, e si fa in silenzio, e ci inchiniamo. Tutto questo perché? Tutto questo per un movimento opposto nel cuore, che è Bitul, cioè annullamento del proprio io. Tutto ciò che noi facciamo nella Amidah, i propri comportamenti che sono richiesti dall'Alakha, sono volti a che cosa? Sono volti a rendere meno importante ai nostri occhi la nostra stessa identità, il nostro ego. Sono volti ad abbassare il nostro ego, a cercare di annullare il nostro io in un certo senso. E allora, ci sei o non ci sei? Se non ci sei, che esigenze hai? Se hai esigenze, allora non sei annullato la tua volontà davanti ad HaKadosh Baruch Hu. Eh? È un grandissimo paradosso. Allora, Yichud Kuchabri Hushkintei vuol dire proprio questo. Vuol dire riconoscere la sua sovranità, essere sudditi, non vuol dire cessare di esistere, non vuol dire annullarsi totalmente. Vuol dire, come dicevo prima, allineare la propria volontà alla sua. E cioè, le mie esigenze, che possino le mie esigenze diventare ciò che tu vuoi, HaKadosh Baruch Hu, ciò che tu vuoi siano le mie esigenze. Che vuol dire? Vuol dire sì, io chiedo nella Amidah che HaKadosh Baruch Hu mi dia l'intelligenza. La prima richiesta della Amidah è questa. Dopo l'introduzione delle prime tre Berachot, Avot, Gevurot, Kedusha, c'è la richiesta dell'intelligenza. Perché chiedi l'intelligenza? Se tu sei suddito e lui è sovrano, non devi avere intelligenza, devi solo seguire, devi essere una macchina che segue le istruzioni. Programmato, uno dice HaKadosh Baruch Hu, programmami, e sarà automatico. Perché deve esserci questo conflitto tra la mia volontà e la sua volontà? Sarebbe più semplice se fosse in maniera automatica. No, noi chiediamo l'intelligenza perché? Non per poter combattere con la nostra intelligenza contro l'idea che HaKadosh Baruch Hu vuole da noi, ma perché la nostra intelligenza possa essere uno strumento, un veicolo attraverso il quale la volontà di HaKadosh Baruch Hu viene effettuata. Cioè, in altre parole, la persona riconosce, se HaKadosh Baruch Hu mi dà un'intelligenza, per cosa devo usare questa intelligenza? Per capire come posso fare di più, per entrare nella volontà di HaKadosh Baruch Hu, per promulgare le mitzvot che HaKadosh Baruch Hu vuole siano promulgate e così via. O potrei usare la mia intelligenza per fini personali, egoistici. Allora, questo è il gioco. Il gioco è, HaKadosh Baruch Hu non vuole che tu diventassi un essere programmato. HaKadosh Baruch Hu vuole che tu rimani un essere indipendente e tu chiedi l'intelligenza e diventi più intelligente e usi quell'intelligenza per approfondire quel rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Nella Amidah tu fai la richiesta della Parnassà, un'altra delle richieste che facciamo nella Amidah, la Berachà di Birkat Hashanim, Mevarech Hashanim, è una richiesta di Parnassà, una richiesta di sostentamento. Non c'è richiesta più egoistica di questa, uno potrebbe dire. Richiesta di sostentamento perché io devo esistere, devo sostenere la mia famiglia, mantenerla e così via, e di conseguenza HaKadosh Baruch Hu, dammi una mano. C'è l'abbassamento dell'io, però. Allora dove sta l'abbassamento dell'io? Chiedo aiuto a lui, io ci metto, ci vado a lavorare, però se è lui che mi deve dare. Esatto. Allora sì, da una parte già il fatto che tu chiedi vuol dire che tu riconosci che c'è qualcosa più grande di te. Assolutamente sì. C'è la prima fase qui dell'umiltà, se vogliamo, no? Del mettere l'io da parte, e il fatto proprio di chiedere è anche un'indicazione di mettere l'io da parte. Questo è più superficiale. Andando più in profondità, c'è sempre lo stesso paradosso che dicevamo prima. Perché se l'amidà è un'abnegazione totale del proprio io, allora chi è questo che richiede una parnassa? Chi sei? Cosa sei? Non sei nulla. Uno potrebbe dire, non apro bocca, mi annullo totalmente. Viene la Torah e dice, no, apri bocca. Chiedi questa tua esigenza, perché non sei tu il soggetto vero qui. In questa richiesta, tu chiedi dammi a me la parnassà, ma chi è questo io? È un io che è in funzione di, che si vede come uno strumento per far sì sempre che la volontà di HaKadosh Baruch Hu venga effettuata. Perché devi mantenere la tua famiglia? Certo, è un istinto naturale, normale. Però a livello più profondo, perché devi mantenere la tua famiglia? Perché è una mitzvah. Perché è una responsabilità che la Torah ti dà. Anche qui diciamo, nel senso, mentre dice la Kedusha, Karazel, Zev e Amar, certo, sì. Anche per gli altri, nel senso, insieme a tutti gli altri e tutti insieme, come il gruppo, come entità. Quindi sì? Condivisa insieme agli altri. Insieme agli altri, che è un ulteriore, diciamo, un ulteriore abbassamento del proprio ego personale, ma in generale il paradosso sta in questo, la richiesta va fatta e la richiesta, teoricamente sono io il soggetto della richiesta che richiede, sono io che richiedo, al tempo stesso nella mia mente dovrei cercare di arrivare al punto in cui il soggetto non sono davvero io. Io sono il soggetto che richiede, ma qual è la motivazione? Perché richiedo? L'Eshem Shamayim, cioè è tutto rivolto a un discorso di qual è la volontà di HaKadosh Baruch Hu. E questo è il grandissimo paradosso che è l'Amidà. E per questo motivo l'Amidà è una cosa difficile. A parte che è difficile perché, specialmente se siamo abituati a fare tefilà, allora le parole ci vengono naturalmente ed è facile quindi distrarsi nel momento in cui si fa tefilà, perché è normale, la mente umana, il pensiero divaga e si distrae per natura proprio. E quindi abbiamo la prima lotta, quella di cercare di tenerci concentrati. Ma questa è la lotta superficiale dell'Amidà. La lotta più profonda dell'Amidà è dove la persona non è distratta da cose esterne, ma il tema stesso dell'Amidà di per sé rappresenta una lotta tra il volere naturale di una persona, di sopravvivenza, di libertà, di poter esistere per motivi egoistici, non negativi, egoista non è sempre negativo, ma per motivi semplici egoistici io voglio esistere, ogni persona è un istinto naturale questo. E la lotta tra questo è cercare di realizzare che non sei qui per te, sei qui in funzione di. E quindi quelle richieste vengono fatte con questa ottica. Sì, a servizio. A servizio di. E questo è il senso di quel Yichud Kuchabri Hushkintei, quel unire questa teoria con la pratica, che avviene nella persona e viene rispecchiato, per così dire, nei mondi superiori. Il problema che poi si affronterà è di nuovo nello specifico perché dobbiamo entrare nei nomi e nelle sefirot specifiche, se possiamo rivolgerci con tutto questo che abbiamo detto, ci possiamo comunque rivolgere direttamente ad HaKadosh Baruch Hu, perché passare attraverso questi, diciamo così, intermediari, se vogliamo. E sono degli intermediari? Cosa sono esattamente? Questo adesso si affronterà. Per il momento c'ho delle domande o andiamo avanti? Partiamo dall'ultima. Poi... Sì? C'è una cosa che adesso... Se ognuno di noi esiste, c'è un motivo per cui esiste la nostra stessa libertà. Quindi vuol dire che noi veniamo al mondo con un compito. Da... Certa missione, certo. Sì. Quindi, se io sono creato per compiere un compito, no? Sì. Perché ho bisogno di chiedere dei mezzi per poterli mettere in atto? Se sono stato creato, io devo fare questo. Se mi ha creato, perché mi ha dato un compito? Perché questo è il compito per il quale sei stato creato. Di chiedere. Sì, cioè di riconoscere il Malchut. Il chiedere è l'essere suddito e riconoscere il Malchut. In altre parole, è vero che siamo stati creati ognuno con una missione, però quello che dobbiamo realizzare è che questa missione non è un segreto. Non è una cosa che dobbiamo andare a cercare qual è la nostra missione. La nostra missione per la quale siamo creati è scritta sulla Torah. Di mettere in atto la volontà di HaKadosh Baruch Hu così come si esprime nelle mitzvot della Torah. Questa è la nostra missione. E tutto questo rientra sotto questo schema qui del En Melech Velo Am. HaKadosh Baruch Hu crea per, tra virgolette, essere re, dicendolo in maniera molto... E qual è il tuo compito, quindi qual è la tua missione? Riconoscerlo. Questo in termini molto generali, chiaramente. Poi è vero, certo, ogni persona è diversa dall'altra. E quindi, in altre parole, non è che ognuno ha una missione che è diversa, non che tu hai una Torah e lui ha un'altra Torah. Cosa intendo dire? Il modo in cui ognuno, diciamo, le spezie, la pietanza è quella, ma le spezie possono cambiare. Cioè, essendo ogni persona diversa dall'altra, è chiaro che c'è un gusto diverso. Anche se le azioni sono le stesse, ma le modalità, il sentimento soprattutto, è diverso. Dove vediamo questa cosa in maniera molto, diciamo così, incisiva? È nella parasha che leggiamo Be'alotecha, e si legge a Hanukkah, dove, dove si leggono le offerte, parasha Naso, dove si leggono le offerte che hanno fatto i capi tribù, per l'inaugurazione del Mishkan, ok? Allora leggiamo prima di tutto la prima offerta, la prima tribù di Yehuda, ha offerto così e così e così e così, ok? Poi sembra che ci sia stata la prima funzione del copia e incolla della storia, perché si ripete per 12 volte, cambia il nome, e cambia qualche lettera a volte, però la stessa offerta. Allora noi sappiamo che la Torah non usa ripetersi e non usa allungare, anche se non si ripete, ma anche sceglie quasi sempre la via più breve per esprimere un'idea. E se non scegli la via più breve, allora i Chachamim chiedono perché, arrivano a delle conclusioni, perché qui c'è una Vav, se avesse potuto dirlo senza una Vav, e così eccetera, e così via. E qui ripete per ben 12 volte la stessa offerta. Oh. Allora il Midrash dice e spiega le kavanot diverse, cioè le intenzioni e i sentimenti diversi che erano coinvolti da parte di quella tribù, o di quel capo tribù, di quella tribù, nel portare quella offerta. Di fatto l'offerta stessa fisica era la stessa. Ma la motivazione dell'offerta era diversa, il gusto era diverso. Ok? Allora, la tefilà, adesso che siamo già dopo l'epoca dell'Anshei Knesset HaGedolah, i maestri che hanno formulato le tefilot per noi, perché prima di quello, in realtà, bisognava fare ogni giorno una tefilà diversa. Cioè, se la tefilà è il tuo sentimento che si esprime verso HaKadosh Baruch Hu e la tua richiesta personale del momento, come fa a essere sempre la stessa? Anzi, la Mishnah dice... Alta astefilatcha keva. La Mishnah, che era stata insegnata ancora prima di quell'epoca in cui erano formulate le tefilot, una Mishnah molto antica, che dice non fare la tefilah fissa, tutti i giorni la stessa tefilah. È una presa in giro. La tefilà, sì, segue dei parametri, come va formulata anche prima che era formulata ufficialmente. Ci sono dei parametri, però entro quei parametri devi dire quello che è valido sul momento. Perché è sempre la stessa tefilà? È una presa in giro. Ora, è chiaro che a livello tecnico questa cosa non si applica a noi. Noi siamo tenuti a seguire la formula della tefilà così come è scritta. Può cambiare di poco da un rito all'altro, ma alla fine è quella. Parliamo in particolare dell'Amidà, ma anche tutto il resto. È quella la formula. Anshei Knesset Agedolà hanno saputo, tra loro c'erano anche Nevi'im, profeti, hanno saputo formulare le tefilot che possano essere delle formule che racchiudono in sé tutte le kavanot, cioè tutte le intenzioni, tutte le motivazioni che ci possono essere, possono essere incluse in questa formula. Quindi, di nuovo, parliamo di esterno e interno. La struttura, come quando parlavamo della metafora della coppia, che c'è la struttura ma non c'è l'interno. Anche qui, nella tefilà, abbiamo la struttura. Ma la struttura va animata, gli va data vita, gli va dato una neshamah, se no viene paragonato ad un corpo privo di vita, ad un corpo che non ha anima. Allora la nostra tefilà, per essere una cosa vivente, tra virgolette, serve il coinvolgimento sentimentale e anche intellettuale, anche dell'intenzione. Ora, in questo contesto delle kavanot, cioè l'intenzione che ci deve essere nella tefilà, subentra tutto ciò di cui stavamo parlando prima, cioè i mikubalim che ci dicono, allora quando dici questo nome di Hashem, questa è la Kavanah, e quando il nome di Hashem è scritto con queste vocali, allora indica queste Kavanot, come in alcuni sidurim è anche indicato. E qui sta il nostro problema, come dicevo prima, perché non possiamo andare diretto. Allora spiega il Rebbe Tzemach Tzedek, quando noi parliamo delle Sefirot, è chiaro che non si intende una forza indipendente da quella di HaKadosh Baruch Hu. Di nuovo, Chas v'Shalom, mai sia dire una cosa del genere. Si intende la stessa energia, lo stesso flusso che deriva sempre dal Creatore, deriva sempre dal Bore, da HaKadosh Baruch Hu, e si esprime in maniere diverse. Quando usiamo il nome Kel, dice, allora questo esprime l'idea di HaKadosh Baruch Hu, così come si manifesta attraverso il Chesed, attraverso l'apertura positiva, attraverso la benevolenza. Quando usiamo il Shem Elohim, si riferisce sempre ad HaKadosh Baruch Hu, ma così come lui si esprime nella manifestazione più di giudizio, rigore e così via. Quindi anche se sono 10 sefirot e quindi 10 indicazioni diverse anche a livello dei nomi, potrebbero essere, e anche fusioni di nomi, a volte usiamo due nomi di Hashem, vediamo un altro Hashem Elohim o cose simili. Questo è tutto, cambia solo il nome, ma non cambia il soggetto del nome, chiaramente. È sempre HaKadosh Baruch Hu. È come se fa una metafora di un re, sempre parliamo della metafora del re, è come se un re dà un dono, conferisce un dono a uno dei suoi sudditi. Allora potrebbe dare il dono con la mano destra e potrebbe darlo con la mano sinistra. Cosa cambia? Sempre il re che dà il dono. Noten matanale zulato peamim biado yemanit, potrebbe darlo con la mano destra, o peamim biado asmalit, potrebbe darlo con la mano sinistra. Anche se sono due mani diverse, che sono distinte l'una dall'altra, questa è quella destra e questa è quella sinistra, non sono un'unica mano, sono due mani distinte, ma è tutta una cosa, perché l'atto che è stato fatto qual è? Il re ha dato un dono. Amelech natam. Chi, cosa intendiamo quando diciamo il re ha dato il dono? La persona del re, la parte interiore. Non ci interessa la mano, come si è espressa questa cosa fisicamente, il canale attraverso il quale è arrivato il dono. Afal pisha yadaim em shnaim, nonostante le mani fossero due, hamelech echad hu, il re è sempre uno. Veuna fsho vesichlo, e cosa intendiamo per il re? Non il corpo che vedi qui, ma intendiamo la mente, il cuore, l'io della persona. E allora dice ugualmente, anche se le sefirot sono 10 sefirot distinte, ma la luce divina, che il flusso che passa attraverso queste sefirot, quindi questi veicoli se vogliamo, è sempre il flusso di HaKadosh Baruch Hu, che parte da HaKadosh Baruch Hu. E quando noi diciamo qualsiasi di nomi di Hashem, intendiamo Hashem, non intendiamo il canale. Intendiamo chi opera con questi canali. E allora la domanda che ci poniamo a questo punto è: perché esistono allora queste differenze? Se è sempre la stessa fonte mandante, perché cambia allora la distinzione tra una modalità e l'altra? Dei recipienti di Sefirot. Oh, bravo. Allora fai riferimento a un concetto cabalistico molto importante, che sono i Kelim. Kelim, tra virgolette, si usa il termine recipiente, che si intende proprio canale e la modalità che cambia. La domanda è: perché deve cambiare? Se in realtà dietro è sempre uno, è sempre lo stesso mandante di nuovo di questo flusso, perché deve cambiare il Kelim? Perché deve cambiare la modalità? La risposta semplice è: nonostante la luce infinita, così la Kabbalah chiama il flusso di HaKadosh Baruch Hu, la luce infinita è uguale da una sefirah all'altra, è sempre la stessa, semplice, semplice cioè non definibile, infinità di HaKadosh Baruch Hu che si esprime. Mikol makom, nonostante ciò, leinyan peulato veashpato baolamot yeshinui. Perciò dal punto di vista sua non c'è nessuna differenza. Dal punto di vista nostro può esserci una grande differenza, come viene espressa e quale modalità viene usata. Perché se lui facesse investire questo suo flusso tramite quello che noi chiamiamo chesed, benevolenza, che mitlabesh bemidat chasdo, ubave al yadaya irba olamot, e illumina, cioè fa arrivare questa luce, questo flusso attraverso quella modalità di chesed, di benevolenza, allora quale sarà il risultato? Bechinat gilui chasadim verrav tov baolamot. Allora lì il flusso arriverebbe a noi in una maniera apertamente di chesed. Ma non scendiamo noi a guardare il flusso? No. No, no, no, se lui scegliesse. Sì, sì, sì. No, non che noi scegliamo. Ukshe mitlabesh, quando lui usa il flusso bemidat gvurato, attraverso l'attributo di gevurah, di rigore, di giudizio, e manda attraverso questa modalità, è chiaro che si esprime in un comportamento che noi vediamo come, tra virgolette, negativo, giudizio. Dinim chas v'shalom. La differenza è nel modo in cui giunge a noi. Ok? E perché? Perché ci devono essere di queste differenze che per come giunge a noi? Perché non può essere nella stessa maniera che parte da lui giunge a noi? No? Comportamento nostro. Allora, a parte questo, ma proprio la struttura della creazione è tale che è limitata. La creazione stessa della realtà, dell'universo, del mondo che conosciamo, vuol dire creare, nel momento in cui noi diciamo creare, vuol dire creare dei limiti. Che vuol dire creare dei limiti? La realtà che noi conosciamo è una realtà che è di per sé limitata e all'interno di sé è fatta e definita da limiti. La parola definizione, definire una cosa, significa limitarla. Cioè tu descrivi cosa è e di conseguenza cosa non è. per poter essere questo deve non essere quell'altro. Questo si intende per limiti, non limiti prigionia, limiti definizioni. La creazione si basa su questa idea qui. E nel momento in cui questa stessa è, diciamo così, la struttura della creazione, nel momento in cui giunge un flusso che non è limitato, la creazione cessa di esistere. In altre parole, la nostra grazia è anche il nostro limite. Il fatto che noi esistiamo è grazie a questi limiti che sono imposti. Se non fosse per questi limiti non esisteremmo. È sempre un discorso di Kelin, di recipiente, perché si usa, ovviamente è una metafora, non è che nel cielo ci sono grandi recipienti di luce, però cosa si intende? Si usa questa metafora per trasmettere a noi un'idea, e l'idea è che questo recipiente può contenere quanto fisicamente, secondo le regole della fisica, è possibile contenere in questo recipiente. Se il contenuto è maggiore rispetto al contenitore, allora se è un contenuto, diciamo, se il problema è la quantità, allora semplicemente esce fuori dal contenitore. Ma se è anche un problema di qualità, cioè di che tipo di contenuto, questo recipiente non può accettare ogni tipo di contenuto, può accettare alcuni tipi di contenuti. Se, di nuovo, se è un problema di quantità, il problema è minore, perché semplicemente espelle la quantità in eccesso. Però se è un contenuto che è nocivo per questo contenitore, il contenitore può cessare di esistere addirittura. Se questo contenitore, che è un bicchiere di plastica, metti l'acido, anche se metti un liquido troppo caldo, un liquido neutro ma troppo caldo, si scioglie, o con l'acido proprio si scioglie totalmente, cessa di esistere. Allora non devi limitare, non imporre limiti, metti tutto quello che vuoi. Non puoi dire così. Sta dicendo la stessa cosa è la nostra realtà. La nostra realtà si basa su definizioni dove ogni cosa è definita e distinta dall'altra proprio per quelle definizioni, proprio per quei limiti. Di conseguenza, come dicevi tu prima, se per esempio l'apertura è troppo dall'alto, non possiamo contenere. A livello qualitativo, a livello quantitativo, non cambia. Il fatto è che non puoi contenere. Di conseguenza, queste diverse modalità, di nuovo, non sono importanti per il mandante, non sono importanti per HaKadosh Baruch Hu. Dietro c'è sempre HaKadosh Baruch Hu. Le diverse modalità sono la struttura o sono l'anima della struttura attraverso la quale esiste l'esistenza, esiste la creazione. E quindi si parla di una ricetta molto precisa che deve contenere molti elementi diversi per arrivare esattamente al punto in cui questo può esserci, questo può esistere. Un po' troppo di là, un po' troppo di qua, può cambiare tutto. Prendi una ricetta fatta, ecco qui c'è stato, non so, qualche dolce, qualche... Cambi la ricetta, cambia l'elemento. Come quella storia di un ebreo che era molto povero, purtroppo, quando era Hanukkah, o era Shavuot. Shavuot c'è un'usanza degli Ashkenaziti di mangiare una pietanza che si chiama blintzes. Blintzes sono come un tipo di crepe. Ripieno con patate o con formaggio, perché Shavuot si mangia di latte anche. Allora passa attraverso la casa del ricco della città, sente un odore di blintzes, qualcosa di incredibile. Arriva a casa e dice alla moglie: prepara anche tu le blintzes per Shavuot. Dice: beh, con cosa lo preparo? Dice: beh, mi manca questo ingrediente. Vabbè, fai il blintz senza quell'ingrediente lì. Manca questo, mi manca quell'altro. È una storia molto lunga. Alla fine è contento che almeno i blintz ci stanno. E dice, vabbè, fai a meno di questo, fai a meno di quello, però almeno abbiamo i blintz anche noi. Si sente ricco anche lui. Si mette a tavola, assaggia e sputa fuori, ma cosa hai fatto qui? Cosa hai creato? Blinzes senza blinzes, non si può? Non c'è la ricetta, non c'è la ricetta, non c'è l'elemento. Allora, se vogliamo usare una metafora banale, le sefirot sono una ricetta esistenziale attraverso la quale HaKadosh Baruch Hu esprime il fatto di creare questa realtà. Ani Hashem lo shaniti, c'è scritto. Io sono Hashem e non sono cambiato. A livello semplice vuol dire non ho cambiato, il mio patto con voi rimane, nonostante voi non sempre seguite, eccetera, e sono sempre qui. Però a livello cabalistico, spiegano i Mikubalim, io con tutte le sefirot, con tutte le vari tipi di flusso, tutte queste ricette, se vogliamo, HaKadosh Baruch Hu non cambia. Ma sia a dire che questo è come se fosse in qualche maniera modificata la realtà di HaKadosh Baruch Hu. Non è modificato lui. È il recipiente che cambia. Chi riceve il canale e la parte nostra, per noi cambia il modo in cui lui si pone, se vogliamo. Veloce yeshinui chas v'shalom be'etzem ha'or. Non che c'è qualche cambiamento, modifica nel flusso stesso, o mai sia il mandante del flusso. La differenza è nel modo di far arrivare il flusso e in chi riceve il flusso. Ok? Cambia solo, sì? Dimmi. Di fatto solo la sefirot di Malchut. Che vuol dire? Sì. Tutte le sefirot sono una novità per HaKadosh Baruch Hu. Questo esiste al di là delle sefirot. Sì. Esatto. Sì. Non che cambia recipiente, cambiano i nostri occhiali. L'arrivo del Mashiach vuol dire che questo è aperto per noi, che la presenza divina è manifesta, per questo sarà la Geulah del Gallut Ashkinah. Abbiamo detto Gallut Ashkinah, la Ashkinah è in esilio, vuol dire che non si vede tutto ciò, che tutto ciò è nascosto. Nel momento in cui non c'è più il Gallut, vuol dire la Geulah, la redenzione della Ashkinah, vuol dire che questo rapporto diventa evidente, diventa manifesto. Questo cambia. Scusa, sì? Anche la Ashkinah è un Kelim? La Ashkinah rappresenta proprio la sfida di Malchut, è uno dei Kelim, certo. Quella che, diciamo, è la realtà più evidente, più, tra virgolette, bassa, più inferiore sulla scala delle sefirot, se vogliamo. Quella legata all'azione. Ok? E quindi per questo cambia il nome che tu usi quando parli di HaKadosh Baruch Hu. Per questo è preciso quando si dice nella Tefilah o è scritto sulla Torah un nome piuttosto che un altro nome, o un insieme di due nomi o più. In Teilim ci sono a volte più di due. Perché per noi vuol dire qualcosa di diverso. Per lui è sempre lo stesso, è sempre lui. Ma per noi vuol dire qualcosa di diverso. È come se tu vedi la realtà soggettiva alla tua realtà. Ognuno di noi può guardare il mondo e vedere qualcosa di diverso. Qualcuno vede il mondo e vede una difficoltà, l'altro vede il mondo e vede un'opportunità e guardano la stessa cosa. E vedono due cose diverse. Perché è soggettiva la visione a quello che uno è, a quella che è la propria esperienza e tutto ciò. Quindi dal punto di vista soggettivo nostro cambia il modo che HaKadosh Baruch Hu si pone, che fa arrivare il suo flusso, cambia per noi. Ed è questo il significato dei nomi diversi, il modo in cui lui si manifesta, come citavamo prima dal Midrash, proprio su Shemot, quando Moshe ha detto come ti chiami, loro mi diranno come si chiama, in altre parole come sta agendo, come si spiega questa situazione, non è il nome, è la manifestazione, è la situazione, come si spiega, come sta agendo, qual è la sua, diciamo, motivazione in questo momento. Era una domanda che riguarda al Galut. È molto pertinente, cioè era una domanda che diceva non lo vediamo. Come lo possiamo chiamare se non lo vediamo? Come si chiama questo tipo di rapporto quando non sembra ci sia l'altra parte? Perché ha usato quel nome nell'ambito da un altro nome un po' più rigoroso? Più rigoroso vuoi? No. Ma chiediamo che... meno rigoroso, non più rigoroso. Dice, yes, yes, yes, sì. Qui non entra adesso in quel nome specifico. Però quel nome è un nome che indica una presenza anche quando sembra non ci sia una presenza. Quella era la risposta. La risposta è Imo Anochi Betzara. Anche se è nella Zara, anche se lui sta in difficoltà o è oppresso il popolo, questo non significa che io non sono presente. Anzi, questo è proprio il discorso della Galuta Shekhinah. Io sono con lui nella Zara. In altre parole, questa mancanza di rapporto affettivo, di senso, di sentimento nel rapporto, non è solo una cosa che tu senti quando sei oppresso. È come se la Shekhinah sentisse. Questo è tutto il discorso del Galut Shekhinah. Cioè, il flusso manca nei mondi superiori. In altre parole, tornando a quello che dicevamo prima, il mondo è come se vada avanti automaticamente, ma non perché c'è un rapporto tra il suddito e il re. Perché anche se tu non confermi la sudditanza, Akadosh Baruch Hu ha detto la regola è che il mondo andrà avanti. Allora cosa cambia? Cambia interiore o esteriore? Cambia se c'è il meccanismo ma non c'è l'anima o se c'è anche l'anima. Allora che ci sia l'anima nella totalità, che ci sia la rivelazione totale, per questo serve la Geulah. Ma che ci sia un po' di anima. Che ci sia un po' di vita, sì, per dare, esatto, come il sonno, Ayinu Kecholmim, c'è scritto nel Tilim, il Galut è come un sogno, nel sonno, ma perché ci sia anche in questa situazione che ci troviamo ora in Galut, e Galut Ashkinah, di nuovo, perché ci sia qualche tipo di anima, di vita anche in questo, questo è il punto della Tefilah. Questo è il cuore, questa è l'anima della Tefilah, e cioè ricreare in sé, nella persona che fa Tefilah, ricreare un sentimento, un riconoscimento del regno di HaKadosh Baruch Hu, e quindi un sentimento di amore e di timore che ti lega a lui, e questa è la definizione di Avodat Hashem, servizio di Hashem, e la Avodat Hashem è Tefilah, ule ovdo bechol levavchem. Diciamo nello Shemai, significa servirlo con tutto il vostro cuore. Dicono i Kachamim, che vuol dire servire con il cuore? Posso capire, servire con le mani, con i piedi. Che vuol dire servire con il cuore? Servire con il cuore è Tefilah. Portare il tuo cuore verso HaKadosh Baruch Hu. Questo ricompone quell'unione, anche se in minima parte, comunque in versione Galut, ma ricompone quell'unione tra creatore creato e creazione. Quindi c'è l'inizio della Tefilatta. Questa è la Kavanah generale della Amidah. Inizio della Tefilatta. Sì.